Italia in controluce. È il 20 dicembre, vi parla Daniele Biacchessi. È la seconda puntata del viaggio d'Italia in controluce tra i cosiddetti pretacci. Oggi siamo a Milano, siamo con Don Mazzi, intervistato da Giacomo Segantini. Sono diventato prete degli sfigati perché io concepisco prete solo così. Io non sarei mai stato capace di fare il prete impiegato, il prete della parrocchia, il prete con il tricorno, la veste lunga, eccetera. Ho avuto un'infanzia molto difficile, ho avuto un'adolescenza ancora più difficile, sono rimasto senza papà, ho sofferto la fame, ho solo riuscito a studiare perché ho trovato dei preti che mi hanno mantenuto senza pagare una lira. Ho fatto la scuola media con grossissime difficoltà durante la guerra, sono stato bocciato per cattiva condotta. Ho fatto il liceo classico perché io amo molto le lettere, ho incontrato la musica e quindi è diventato il pianoforte per me, il mio più grande amico ed è quello che mi ha salvato. Ho finito il liceo, dice adesso cosa faccio? A casa non potevo andare, mia mamma poverissima non aveva i soldi nemmeno per lei. Sono andato a Ferrara, alla città dei ragazzi, per dare una mano ai ragazzi di allora. È scoppiata l'alluvione nel 51 e ad un certo punto mi sono trovato lì con bambini di tutti i tipi, disperati. E allora ho pensato, proprio a 20 anni compiuti, ho pensato cosa fare della mia vita. Povero, balordo, irregolare, quello che diremmo oggi borderline. E ho pensato che forse aiutando ragazzi più difficili di me, più problematici di me, più poveri di me, mi sarei salvato. E allora ho mollato l'università, ho mollato il conservatorio e ho fatto il prete. E ho fatto il prete proprio di strada. Sono stato a Prima Valle, ho vissuto proprio il 68, il Concilio Vaticano. Dal 69 al 79 sono stato a Verona a lavorare con i disabili. Soprattutto volevo che i ragazzi disabili non rimanessero chiusi nelle istituzioni totali. Allora c'era tutta la storia della legge 180, degli ospedali psichiatrici aperti, eccetera, eccetera. Ho cercato di lavorare per 10 anni con i ragazzi con problemi psichici e mandarli a lavorare creando cooperative con l'obiezione di coscienza che era nata in quel periodo. Il gruppo Exodus quando è nato e perché l'avete chiamato così? Nel 79 sono piombato a Milano, dovevo dirigere una scuola con migliaia di giovani, scuola elementare, media, scuola professionale, istituto grafico serale, e lì mi sono imbattuto nella droga, nel terrorismo, nel momento in cui Parco Lambro era in qualche maniera il luogo delle contraddizioni. Renudo, i primi aspetti molto radicali, i primi subbulli studenteschi, avvenne il primo arrivo degli acidi e delle erbe, e quindi e lì ero venuto perché c'erano migliaia di ragazzi da tra virgolette istruire, quindi scuola media, la classica scuola elementare, media e istituto grafico. Ad un certo punto è arrivata la droga a 2 passi dal mio istituto, dal mio centro che era in via Pusiano, davanti avevo purtroppo tutto il Parco Lambro. Ad un certo punto hanno incominciato i ragazzi miei, morivano, uscivano, non venivano a scuola, le mamme disperate. Purtroppo la gente fatta la trovavo la mattina nei bagni della mia scuola e ad un certo punto, verso nell'83-84, ho deciso di affrontare con serietà questo problema. E ho girato un po' l'Italia, sono andato ad annusare cosa faceva Muccioli, Ciotti, Picchi, Gelmini, e io non volevo fare strutture, io sono sempre stato tra virgolette contro le istituzioni, per cui ho pensato, venendo dallo scautismo, venendo dall'oratorio, dal centro sportivo, ho pensato di mettere insieme una struttura itinerante, una specie di piccolo campo mobile, come fosse un campo di scout, che anziché avere la tenda ho preso 4 camper, ho messo su questi camper i più disperati del Parco Lambro, siamo nel 1984, e ho provato per la prima volta a fare una comunità diversa, con l'avventura, l'itineranza, la notte, il teatro, lo sport, e sono partito nel 84, ho chiamato Esodo prima di tutto perché è il libro della Bibbia che mi piace di più, cioè la storia di un popolo che si libera, di un popolo che cerca di liberarsi dalla schiavitù, che siamo un po' tutti noi, come popolo, come individui, e quindi l'ho chiamato Esodo perché ognuno di noi è il suo piccolo esodo, ognuno di noi deve uscire da se stesso per migliorare, per aiutare gli altri, per liberarsi dalle dipendenze. Dagli anni 80 ovviamente le attività si sono allargate. Adesso lavoriamo a 360 gradi, è cambiata profondamente, tra virgolette, l'architettura del mondo della droga o delle dipendenze. Adesso ci sono tantissime dipendenze, dalla all'alcol, alla coca, ancora all'eroina perché non è sparita, alle anfetamine e tutto quello che riguarda le pasticche con tutte le sfumature che ci sono, ma soprattutto la mia paura oggi non è proprio la droga, è questa incapacità da parte dei nostri giovani di affrontare la normalità senza qualche piccolo aiuto. Certo. Ecco, sono così fragili che oggi anche per affrontare il normale i nostri ragazzi affrontano un esame, un'interrogazione, un affetto, pare che abbiano bisogno di qualche cosa che non trovano dentro ma che cercano fuori. Quindi la fragilità dei nostri giovani mi preoccupa. Oggi, avvenne, la fragilità si traduce in un bicchiere di whisky oppure in una pasticca, ma domani potrebbe non essere capace di affrontare la vita normale. La mia paura di domani è proprio che questa fragilità porti i nostri ragazzi facilmente al suicidio, alla fuga dalla normalità. Quindi stiamo lavorando adesso in questo momento sulle istituzioni perché capiscono questa cosa, la famiglia, la scuola, il tempo libero, l'ente locale, capiscono che bisogna rinforzare i nostri ragazzi, che bisogna arrivare prima, che non bisogna continuamente pensare che esista solo la roba, perché anche la dipendenza dalla macchina, per esempio, la dipendenza dalla velocità, ma come mai che i nostri ragazzi devono comunque, per sentirsi qualcuno, devono essere anormali, tra virgolette, perché pare che la normalità non renda felice nessuno. Abbiamo aiutato i nostri figli a studiare, a lavorare, a pregare per chi crede, ma non abbiamo aiutato i nostri figli a divertirsi, perché nemmeno noi adulti siamo capaci di divertirci. Ecco, quali sono gli strumenti del metodo Don Mazzi? Io ho preso le cose più semplici. Io credo prima di tutto di dare quattro regole alla gente, ma non gliele do, le vivo. La prima cosa è creare un ambiente normale dove l'amicizia sia molto più importante della disciplina. Rifare degli ambienti amichevoli, degli ambienti sereni, degli ambienti dentro i quali la gente, anche la peggiore, sta bene. Secondo, essere testimoniali, cioè essere dei testimoni di quello che diciamo e di quello che facciamo. Una presenza positiva, serena, adulta di chi è con i nostri ragazzi. Fare le cose semplici nella maniera più impegnata, tornare a studiare, tornare a lavorare, darsi degli impegni, faticare. Alla mattina tutti i miei devono fare un'ora di footing, perché incominciare la giornata così vuol dire già dare un tono alla giornata. Devono tribolare, devono impegnarsi, e quindi l'impegno oggi è una delle cose che i nostri ragazzi non fanno, cioè perché se fanno fatica arriva l'insegnante di sostegno, se hanno una linea di febbre, oddio, va bene, scomodiamo il più grande ospedale del mondo, se sono 3 centimetri più piccoli del fratello viene l'ira di Dio. E creiamo dei cartoni animati e non li aiutiamo a vivere con le difficoltà che la vita richiama. Quindi la mia non è una riproposta banale o serena della vita normale, dove uno studia, si alza, soffre, sbaglia, dice che ha sbagliato, riprova un'altra volta, ha delle priorità per le quali vive. Non so, banale, ecco, rifare una situazione normale, punto, dentro la quale la gente stia bene. Secondo lei, al giorno d'oggi, su quali campi si combattono le battaglie di frontiera? Fino a qualche anno fa io ho lavorato soprattutto sui grandi disagi, adesso io vorrei lavorare sulla normalità. Mi pare che oggi, mai come oggi, sia l'adolescenza il campo particolarmente strategico, l'avamposto sul quale lavorare. Io sto lavorando molto sulla adolescenza normale, perché oggi sono molto a rischio. Il ragazzo di 12 anni, molto bravo, molto intelligente, che ha il corpo esplosivo e non lo controlla, non capisce, è ad alto rischio. Sto dicendo, guardate, la scuola media deve essere cambiata profondamente, perché è la scuola media che prevede ancora i ragazzi di 20 anni fa, che erano preadolescenti, non erano ancora adolescenti. Oggi la scuola media esplode perché c'è l'adolescenza e non la capiamo. Tutto il tempo libero è un tempo importantissimo dei nostri ragazzi, hanno quasi ogni giorno mezza giornata libera dove non ci sono i genitori, sono da soli, i compiti ne hanno pochi, hanno questo corpo esplosivo. La famiglia, la figura del padre, sto scrivendo a destra e a sinistra che i padri devono tornare a fare i padri, perché la mamma mette al mondo il bambino e i padri mettono al mondo gli adolescenti. Ho cambiato le strutture, io ne ho una trentina in Italia di strutture, ma non sono più comunità. Le classiche comunità ne ho appena una decina, dove ho i ragazzi che vengono dal carcere, tutte le altre sono strutture sportive, musicali, capito, formative, che affrontano questo grande tema dell'adolescenza. Era la seconda edizione di Italia in Controluce, tutti i giorni 2 reportage sulla cronaca e sulla società italiana.